In realtà noi c'eravamo già stati 3 mesi fa nel nord del Darfur, a El Fashir, che è la capitale del nord Darfur ed era la ex capitale del grande Darfur, quindi è una delle località più grandi. Sicuramente la cosa che abbiamo notato adesso rispetto a 3 mesi fa è stato in città molta più presenza di militari. Questo sicuramente, anche se insomma è stato firmato un cessate il fuoco da circa 2 mesi che pare insomma venga rispettato a volte sì a volte no, sta di fatto che sicuramente la presenza dei militari in città e intorno alla città è molto aumentata. Sono aumentati tantissimo anche i profughi, la popolazione della città è quasi raddoppiata, sono passati da circa 200.000 abitanti a 350.000 negli ultimi 10 mesi e noi abbiamo visto ancora arrivare gente quotidianamente, insomma gli sfollati sono proprio tanti e vengono tutti dalle zone chiamiamole rurali, che poi in realtà è quasi tutto deserto l'intorno, dove c'erano i villaggi, perché sono zone ritenute non sicure, ancora soggette a predoni, razzie, incursioni di ribelli armati, insomma. Al di fuori proprio della capitale la situazione della sicurezza è ancora abbastanza precaria, purtroppo. La gente comune non ha ancora molto la percezione che si stia raggiungendo una pace, o comunque non crede che la pace firmata sulla carta sia la soluzione ai problemi del Darfur in generale. Almeno questa è la percezione che abbiamo avuto noi parlando un po' in giro con le persone. Il problema grande dei profughi è proprio questo, che non si sentono sicuri e non vogliono rientrare nelle loro zone d'origine adesso, perché appunto non credono che allo stato attuale si possa parlare di pace e si possa tornare a vivere nei villaggi. L'emergenza grande è quella che adesso inizia la stagione delle piogge, che è la stagione fertile, per cui se queste persone non si sentono abbastanza sicure per tornare a casa, perderanno tutta la stagione dei raccolti e quindi dovranno per un altro anno praticamente rimanere accampati o in campi organizzati. Ci dicevano per esempio che al Fashir quasi in ogni casa ci sono dei profughi che hanno trovato rifugio presso familiari nelle città, quindi io ho grandi speranze di pace e di soluzione a breve, non ne abbiamo più viste assolutamente. E anche qui da Khartoum la percezione che si ha è ancora quella di uno stato in guerra. Assolutamente, ci sono controlli serratissimi sui permessi di viaggio per i veicoli, per le persone, si percepisce ancora che insomma la pace non è proprio a portata di mano, ecco. Sicuramente c'è una situazione molto pesante, perché è un'area già molto priva di servizi e anche proprio dura, difficile dal punto di vista geografico, perché appunto è quasi tutto deserto, soprattutto nel nord, quindi è proprio difficile la sopravvivenza lì. Questo conflitto ha sicuramente peggiorato drammaticamente la situazione e quindi c'è un problema grande, serio, di carattere anche umanitario sicuramente. Adesso io non credo si possa parlare né di genocidio né insomma di cose simili, perché almeno la percezione che abbiamo avuto noi stando lì e parlando con la gente non era quello, non è quello il problema principale, però sicuramente dal punto di vista umanitario i bisogni sono al momento veramente tanti. Come emergency, appunto siamo stati lì 3 mesi fa, siamo ritornati facendo, appunto occupandoci noi prevalentemente di sanità, e abbiamo deciso di supportare un ospedale rurale che ormai da mesi non riceveva più rifornimenti in termini proprio di farmaci e di materiali di prima necessità che è l'ospedale di Mellitta. E poi un intervento più cospicuo, stiamo organizzandoci per inviare giù anche un team chirurgico per lavorare nella chirurgia d'emergenza e nella chirurgia di guerra all'ospedale di Fashir, che è la capitale e che è l'ospedale che fa da riferimento a tutto lo Stato, perché obiettivamente le strutture che hanno sono totalmente insufficienti per far fronte ai bisogni sia di natura proprio medica che chirurgica, soprattutto adesso con l'arrivo in città di tutti dei profughi, le necessità chirurgiche aumentano, senza contare poi che ci sono ancora scontri a fuoco, ci sono ancora tantissimi feriti d'arma da fuoco che arrivano in ospedale perché continuano le razzie, ci sono ancora predoni che purtroppo rendono la vita della gente comune praticamente impossibile. Quindi insomma noi da parte nostra ci stiamo attrezzando così, in accordo ovviamente con i responsabili dell'ospedale, inizieremo tra pochissimo proprio anche quelle attività chirurgiche lì, cercando di dare un contributo.